Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Con questo brano di Kay Jarrett iniziamo il nostro colloquio con Ennio La Monica. Buon pomeriggio Ennio La Monica. Buon pomeriggio a tutti. Kay Jarrett, come mai Kay Jarrett? Un pianista, un virtuosista, il virtuosismo è un po' la chiave di lettura anche della sua esperienza? Ma Kay Jarrett perché il jazz è una delle mie passioni e Kay Jarrett è stato il primo disco che ho ascoltato di jazz, che ho posseduto, e quindi mi sembrava giusto cominciare con un brano suo. Ennio La Monica, direttore generale della Banca Carige, Cassa di Risparmio di Genova, tutta una carriera compiuta all'interno della banca. Sì, sono proprio questo mese, sono 31 anni che sono in Carige, quindi posso dire sì, effettivamente una vita. Una vita. Una vita trascorsa. Una vita all'insegna del jazz, una vita comunque un movimento. Anche. Ecco, che cosa unisce un po' l'essere un banchiere con la musica? Cioè un banchiere deve rispettare i tempi, le melodie, le tonalità giuste, i rapporti un po' di anche estetici in fondo. Deve fare qualcosa di bello? Assolutamente sì, nel senso che io sono convinto che il banchiere, non l'ho detto io, fare il banchiere è un'arte, e quindi il mondo dell'arte in senso lato, che è l'altra mia passione insieme alla musica jazz, siano degli elementi che ci accomunano, perché mettono insieme armonia, mettono insieme però anche il fatto di improvvisazione, mettono insieme, quindi essere pronti a cogliere i mutamenti, e anche il fatto di guardare sempre avanti. Ecco, un banchiere, si parla di banchiere, solito visto come l'uomo che maneggia il denaro. Il denaro è qualcosa di in fondo che esprime una ricchezza, ma è qualcosa di povero, qualcosa che sembra non costruire nulla. Il banchiere è quello che riesce a costruire qualcosa anche da una realtà come quella del denaro. Direi che questo è proprio l'elemento fondamentale che spesso in questi ultimi anni in particolare di grande crisi si è un po' dimenticato, che il nostro ruolo è un ruolo a beneficio dell'economia, perché noi in qualche modo prendiamo soldi dai nostri depositanti che potrebbero rimanere infruttiferi, ma li diamo a chi ha dei progetti di investimento per la loro vita, come può essere una famiglia per acquistarsi una casa o come può essere un imprenditore che vuole espandere la sua attività. Quindi è questa la ricchezza che noi in qualche modo cerchiamo di trasferire con la nostra attività. Com'è cambiata in questi 30 anni in cui lei ha vissuto in banca il modo di essere il banchiere? Beh, lei non ha cominciato con la direttore generale sicuramente, certo. Però in banca comunque si vive una certa dimensione. Che differenza c'è tra la banca di adesso e quella di 30 anni fa? Ma direi che l'elemento che salta di più agli occhi è la complessità. Un tempo era molto più semplice, le cose erano più facili, ma non nel senso che il sistema economico era più facile, perché c'erano anche dei momenti di crisi e non bisogna dimenticarlo, ma era proprio il modo di fare banca. Era molto più regolamentato, c'erano meno margini di libertà, però anche meno margini di fare errori. Oggi la banca, bisogna ricordarci che c'è stata una grande trasformazione negli anni 90, la banca da ente pubblico di fatto è diventata un'impresa, e quindi come tutte le imprese il banchiere è un imprenditore che può fare delle scelte giuste o sbagliate, però la complessità di questo tipo di attività è molto maggiore. Ecco, fino a qualche anno fa il banchiere guadagnava sempre, comunque guadagnava attraverso il margine di intermediazione, quindi era un mestiere sicuro. Adesso mi vuol dire che è un mestiere un po' meno sicuro, c'è del rischio. Molto più complicato, molto più complicato. E direi che questi ultimi 3 anni, diciamo dalla crisi di metà agosto 2007 ad oggi, hanno evidenziato che anche le banche che non fanno bene il loro mestiere possono rischiare. Ecco, il pubblico spesso considera la banca un male necessario, qualcosa che comunque ci vuole, anche se poi il banchiere è un po' antipatico nel complesso. È cambiato un po' l'atteggiamento dei clienti, della gente verso la banca? Direi che è cambiato, nel senso che c'è meno sudditanza sotto un certo profilo, e questo è positivo. Dall'altro lato però si capisce di meno probabilmente quello che è il ruolo del banchiere. Oggi c'è molta confusione tra i vari tipi di banche, perché noi parliamo di banca, ma esistono modalità diverse di fare banca. Penso alle investment banks, che fanno un'attività di carattere tra virgolette più speculativo, con le banche commerciali, come sono quelle italiane, che hanno un unico compito: raccogliere il risparmio dei risparmiatori e darlo a chi ha progetti di investimento, come dicevamo prima. Questa distinzione oggi è meno chiara, e quindi la banca non viene vista in realtà sulla sua vera funzione di sviluppo del sistema economico in cui si trova. Ecco, lei ha partecipato, ha avuto incarichi anche in organizzazione di categoria, l'ABI, ha insegnato anche tecnica bancaria, quindi ha proprio una passione per la banca. Direi per la banca e la finanza in generale, cioè ormai sono tanti anni che me ne occupo, e credo che sia importante per un paese che l'educazione finanziaria venga insegnata alle persone sin da piccoli. Ma in Italia c'è poca educazione finanziaria. Molto poca. Io dico sempre che la regola per cui se una cosa ha un maggior rendimento, dietro sicuramente un maggior rischio, dovrebbe essere insegnata sin dalle elementari, perché non è possibile pensare che una cosa renda tanto senza essere più rischiosa. Cioè, questa è la regola basilare, insomma, che dovrebbe guidare gli investimenti. Però gli italiani sono comunque dei risparmiatori che cercano poco il rischio, vanno per la maggiore i titoli di Stato. Il mercato finanziario è poco sviluppato in fondo rispetto ad altri paesi. È un po' colpa anche delle banche. Più che poco sviluppato, c'è un sistema finanziario diverso, dove nel sistema finanziario italiano la banca ha un ruolo centrale, mentre in altri sistemi come quello anglosassone o statunitense questo non è. Ci sono i mercati, la borsa, che ha un ruolo centrale, ma sono due modalità distinte. Uno dei grossi errori di questi anni è aver traslato in Italia, con un sistema finanziario basato sulla banca, regole che invece erano fatte per sistemi finanziari basati sulla borsa, e questo ha creato un po' di confusione e ha messo in difficoltà il sistema finanziario mondiale. Però non a caso le banche italiane sono tra quelle che, grazie a quello che lei diceva prima, cioè la forza del risparmio dei nostri risparmiatori, ha resistito meglio. Ecco, un sistema bancario che si è trasformato enormemente negli ultimi 30 anni: fusioni, aggregazioni, acquisizioni, creazione di grandi gruppi. La Cassa di Risparmio di Genova è rimasta autonoma. Sì, noi abbiamo fatto una scelta negli anni 90 di autonomia. Abbiamo seguito i due grossi filoni di trasformazione che ci sono stati, quindi la privatizzazione, ci siamo trasformati da Cassa di Risparmio in una SPA quotata, quindi siamo l'unica grande Cassa di Risparmio. Ricordiamo che inizio anni 90 un terzo del sistema bancario erano Casse di Risparmio. Oggi siamo rimasti di fatto l'unica di una dimensione in questo tipo, e la concentrazione, che è l'altro grande filone che lei ricordava, perché noi abbiamo in questi anni acquisito altre banche, abbiamo acquisito reti di sportelli, compagnie assicurative, quindi siamo diventati, oggi siamo uno dei 6 conglomerati finanziari operanti in Italia e siamo uno dei primi 10 gruppi bancari. Per capitalizzazione siamo il quinto, il sesto, quindi insomma abbiamo fatto una scelta di autonomia, credo che sia stata... Quindi è meglio aggregare che essere aggregati. Dal nostro punto di vista sì. Ecco, e questo è stato possibile nonostante una trasformazione che c'è stata anche nel vostro territorio di riferimento. Genova era un grande centro soprattutto di partecipazioni statali, di grandi imprese. Adesso si è molto trasformato. Assolutamente sì, e è stata anche una delle chiavi di volta nella nostra strategia, nel senso che proprio il fatto concomitante di una struttura economica della città che cambiava, della regione che stava cambiando, ci ha spinto a uscire dai nostri confini, e quindi a metà degli anni 90 abbiamo cominciato a crescere anche nelle regioni limitrofe, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e quant'altro, proprio per cercare di assecondare la trasformazione del tessuto economico, sennò ci saremmo trovati veramente poi in difficoltà. Ecco, come definirebbe adesso il tessuto economico di riferimento? Prima appunto era un grande centro di partecipazioni statali, adesso qual è, come vive questa realtà Genova, Imperia e le altre aree dove vi siete un po'? Direi che avendo perso molta di quella che era l'industria statale, parastatale di quegli anni, oggi rimane il Porto, una delle grandi realtà su cui fare affidamento, rimane ovviamente l'area turismo e commercio, e l'altra grande sfida è quella di creare il polo tecnologico, la creazione dell'IIT, cioè l'Istituto Italiano di Tecnologia, e tutto quello che muove intorno a questi nuovi progetti potrebbero far diventare veramente Genova uno dei punti centrali dell'innovazione nell'industria. Ecco, dal profilo del turismo forse c'è molta tradizione ma poca innovazione sul fronte delle vostre zone? Direi che il turismo, quello legato diciamo all'ambiente naturale, quindi al mare, sicuramente ha una continuità con il passato, come lei ricorda. Direi che la novità più importante è aver cercato e sta cercando di trasformare Genova come una città di attrazione turistica, che a partire da quelli che sono stati gli interventi, dalle Colombiadi, gli eventi successivi, Genova città della cultura eccetera, ha portato delle grosse novità all'interno della città stessa e fatta diventare lei stessa punto di arrivo per molti turisti stranieri. Quindi anche la qualità di vita dei genovesi è migliorata, possiamo dire. Direi di sì, è cambiata, ecco, io ritengo che in questi anni Genova abbia fatto dei grossi passi in avanti, si è migliorata anche molto dal punto di vista estetico, ha recuperato grossi pezzi di quella che era la città che si era persa. Incontri. Queste note di Kay Jarrett riprendiamo il nostro incontro di oggi. Buona domenica ancora a chi ci ascolta, con Ennio La Monica, direttore generale della Cassa di Risparmio di Genova e Imperia. Genova e Imperia, dicevamo nella prima parte, una vita passata a Genova, una vita passata nella banca di Genova. Ma cos'è Genova? Come definirebbe Genova se dovesse parlare di Genova a uno che non conosce Genova? Che è una cosa che succede spesso, perché Genova è una città un po' nascosta in realtà, sì. Nonostante abbia avuto una storia molto molto importante, sia stato un centro fondamentale nella storia dell'Italia, ma non solo. Io direi che Genova, la sua caratteristica è quella di essere una città di mare, e come tale una città molto aperta, nonostante quello che si possa pensare, abituata agli scambi culturali, abituata ad accogliere, e questa secondo me è la caratteristica più importante, al di là di quella che è l'apparenza che può dare un genovese. In realtà siamo, credo, una città molto accogliente. Quindi Genova, appunto, è comunque una realtà, mi dicevamo prima, dinamica, che sta crescendo, che sta trasformandosi. Ecco, sì. Questa trasformazione economica che riflessi anche da un punto di vista sociale, dal punto di cui parlavamo prima della qualità della vita. Che, quali sono i punti di forza che lei definirebbe di questa realtà? Ma io direi che se diamo un'idea di quello che sta succedendo, in realtà da un punto di vista demografico in questi ultimi anni c'è stato un calo, come in molte altre città, e questo è stato compensato dall'arrivo di forze dall'esterno. Il fenomeno dell'immigrazione, se gestito, ha portato in qualche modo una ricchezza, perché ci sono comunque tante attività che devono essere svolte. Sulla fascia invece più alta della, diciamo, migrazione, quello che ricordavo prima, il tentativo di fare di Genova un centro di eccellenza in tutte le nuove tecnologie, sta portando comunque delle intelligenze che potevano magari, invece che lavorare a Genova, lavorare all'estero, invece stanno tornando nei nostri territori. Quindi c'è un po' questo tentativo di mixare le tendenze che si stanno verificando in molte altre città in Europa. E in questa prospettiva il ruolo di una banca è un ruolo importante, è un ruolo di sostegno, di ossigeno, di supporto alle nuove iniziative imprenditoriali. Ci sono i giovani, si muovono, fanno qualcosa per svilupparsi anche creando imprese, piccole imprese, realtà innovative? Non è mai stata una caratteristica degli ultimi 50 anni, perché come ricordavamo c'era molta industria pubblica e quindi parastatale, quindi si era un po', tra virgolette, perso quello che invece è la caratteristica principale, che è lo spirito imprenditoriale che ha sempre caratterizzato i genovesi. Io credo che in questi invece ultimi due decenni si stia un po' ritrovando la voglia di intraprendere, e io ho molta speranza in questo. Io sono rimasto a Genova anche per questo motivo, per aiutare la mia città attraverso la banca in cui lavoro a sviluppare questa caratteristica di imprenditorialità. Ecco, i genovesi sono sempre visti come qualcuno un po' tirchio, un po' avaro, un po' legato al denaro in senso stretto. Quanto c'è di vero in questa immagine? Io amo dire che siamo parsimoniosi, che ritengo sia una qualità, ma che sia la qualità che fa forte l'Italia, cioè quella del risparmio. Il genovese risparmia e tramite questo risparmio poi consente all'economia, insomma, di avere un polmone finanziario non indifferente. Noi abbiamo ancora oggi come banca una quota importante del risparmio dei genovesi, e cerchiamo di utilizzarla al meglio per farla ritornare sul territorio. Ecco, in questo senso una banca come la vostra in questa fase si assume anche dei rischi sul fronte dell'imprenditorialità dei giovani? Noi, guardi, negli ultimi 2 anni, sto parlando del 2009-2010, anni difficilissimi, in cui, anzi, metterei anche il 2008, in cui il sistema bancario italiano in alcune realtà si è trovato in difficoltà nell'erogare credito, noi siamo comunque cresciuti a ritmi molto importanti e abbiamo continuato a finanziare l'economia. Grazie al fatto che eravamo una banca ancora liquida, solida, con delle, insomma, dei buoni fondamentali, abbiamo continuato a dare credito anche in fasi molto molto complicate. Come vede il futuro della banca, di una banca come la vostra soprattutto? Allora, io parto dal presupposto che la banca, ed è bene questo ogni tanto ribadirlo, lavora prevalentemente per oltre il 90% con i soldi dei suoi depositanti, quindi non sono soldi nostri, sono soldi di altri, quindi io la responsabilità che sento quando finanzio qualcuno è che questi soldi mi devono tornare, ma non per me personalmente, ma perché i miei depositanti devono essere tutelati. Il futuro è un futuro non facile, noi pensiamo che ancora ci siano dei trascinamenti della crisi che non è ancora conclusa e quindi bisogna operare con molta attenzione perché il rischio è ancora elevato, però qualche segnale si comincia a intravedere. Il vero tema in questo momento è che, per quello che riguarda la redditività in senso stretto delle banche, i tassi di interesse a livelli così bassi non consentono di avere una remunerazione adeguata di quelli che sono i nostri rischi. Questo è il vero problema. Ecco, c'è un problema anche di un sistema bancario che appunto è solido. Il ministro Tremonti dice che i banchieri non parlano inglese, quindi non si sono avventurati in operazioni speculative internazionali. Però è un sistema bancario, non dico provinciale, però un po' chiuso. Dovrebbe aprirsi un po' di più alla realtà internazionale il sistema bancario italiano. Io credo che sia già aperto, in realtà è già aperto sotto tanti profili. Noi lo vedo come una banca come la nostra, che viene percepita da qualcuno ancora come banca regionale, ma noi operiamo regolarmente sui mercati internazionali, per esempio per la provvista, per le nostre operazioni di finanza straordinaria, quindi non è in realtà così. Se poi pensiamo che addirittura banche estere operano tranquillamente in Italia, addirittura tramite controllate, io credo che sia più un sentito comune che non una realtà vera. Io credo che il sistema bancario italiano, si dice appunto che ha avuto meno problemi perché era meno all'avanguardia. Io dico che ha avuto meno problemi perché ha avuto anche a mente alcuni principi fondamentali di sana e prudente gestione che altri hanno dimenticato. C'è una vera concorrenza all'interno del sistema bancario. Le banche sono certamente molteplici, tante, ancora tante, nonostante le aggregazioni, le fusioni, ma si fanno una vera concorrenza tra di loro. Verissima, verissima. Molta di più di quella che si pensi dall'esterno. Ormai il sistema bancario italiano, come dicevo prima, è formato da imprese che hanno i loro azionisti, hanno da a fine anno rendicontare di quella che è la loro attività, e c'è una concorrenza spietata, anche se non sembra, ma è così. Quindi ecco, una concorrenza comunque per il consumatore, per il risparmiatore positiva, perché porta ad abbassare i costi e migliorare i servizi. Ecco, su questo fronte i servizi bancari possono essere ancora migliorati, o l'Italia ha uno standard ormai paragonabile a quello degli altri paesi più avanzati? E io sono convinto che ci sia sempre da migliorare. Sui servizi bancari c'è anche da migliorare, sicuramente ci sono modalità di fruizione dei servizi che devono essere sviluppate, dobbiamo lavorare molto su quella che è la moneta elettronica, dobbiamo lavorare molto sui sistemi avanzati di colloquio tra il cliente, c'è tantissimo da fare, la formazione dei nostri dipendenti deve essere ulteriormente rafforzata, perché stanno proprio cambiando, io dico, la struttura di fondo del sistema, cioè noi eravamo abituati a un sistema con determinate caratteristiche, credo che il sistema bancario del futuro ne avrà di diverse. E all'interno della banca è possibile realizzare quello che si chiama un gioco di squadra, un rapporto costruttivo, oppure c'è ancora una logica delle mansioni definite dei singoli collaboratori? Ma oggi più che mai, con la complessità che ricordavamo prima, è necessario lavorare in squadra, perché non ci può essere, non c'è più nessuno che abbia le competenze di tutto. Io dico sempre anche ai miei collaboratori, ci vuole uno che decide, ma il contributo deve essere collettivo, perché altrimenti si rischia veramente di prendere decisioni sbagliate. E si può anche fare innovazione all'interno del sistema, all'interno della stessa organizzazione produttiva, che sembra abbastanza appunto consolidata, tradizionale, in fondo abbastanza ripetitiva anche all'interno della banca. È possibile fare innovazione? Noi abbiamo fatto a maggio la nostra convention aziendale sull'innovazione. L'innovazione credo che sia uno dei driver fondamentali per la trasformazione della banca, che poi innovazione significa innovazione di prodotto, innovazione nei processi produttive e innovazione nei comportamenti delle persone. Se noi lavoreremo sulla innovazione riusciremo a fare altri 500 anni di storia. Che cosa dice un giovane che entra in banca per la prima volta e comincia a lavorare in banca? dico di mantenere il cervello aperto, di essere curioso e di non spaventarsi se all'inizio non si fanno le cose che uno pensava di dover fare, perché anche dai lavori più umili si può costruire comunque una carriera molto, molto, molto importante. È possibile ancora fare carriera, magari non in tempi rapidissimi, però un giovane può avere delle prospettive positive all'interno di un sistema. Sicuramente sì, c'è la gestione dei nostri giovani, dei nostri potenziali, è una delle sfide più importanti che abbiamo noi come management bancario. Io dico sempre che oggi c'è un'emergenza dell'educazione, ma nel paese in generale e anche nella banca, dove l'educazione di oggi non può che poggiare sull'esempio. Se noi riusciremo a dare degli esempi positivi ai nostri giovani, loro avranno una strada davanti. Quindi è possibile essere una delle banche più antiche, mi diceva, quanti anni ha la banca? Più di 500 anni. E insieme anche una delle banche più moderne? Tradizione e innovazione, questa è l'idea che noi abbiamo in testa. Torniamo un attimo al punto di partenza. Ennio La Monica, direttore generale della Cassa di Risparmio di Genova, se non avesse fatto il banchiere, che cosa avrebbe voluto fare? Direi che non ho mai seriamente pensato a una cosa che fosse diversa dalla finanza. Cioè da piccolo non voleva fare il pilota, il farmacista? Da piccolo volevo fare l'architetto, perché mi piaceva l'idea di costruire qualcosa. Poi quando con gli studi che uno ha fatto ho visto che il mondo della finanza mi permetteva comunque di costruire qualcosa anche lì o di far costruire ad altri, ho pensato che questa fosse la mia strada. E poi non ha più avuto dubbi nel proseguire sulla strada di proseguire per altri 30 anni, per costruire sui 400 anni di storia della Cassa di Risparmio di Genova. Ho avuto la fortuna di avere maestri all'interno della banca molto importanti che mi hanno insegnato alcune delle cose che io cerco di trasferire ai miei più giovani collaboratori, e credo che questa sia stata una grande fortuna, perché poi un po' di fortuna ci vuole sempre. Assumete ancora dei giovani all'interno della banca, nonostante i periodi di crisi, nonostante le difficoltà. Quindi diciamo che ovviamente in questi anni c'è stato un rallentamento, perché è chiaro che bisogna evitare di assumere per poi mandare via le persone. Noi non abbiamo mai mandato via nessuno, tutte le uscite che ci sono sempre state volontarie, comunque legate a quelli che sono i sistemi di pensionistici pubblici o della banca stessa, e quindi però è importante introdurre linfa nuova, perché i giovani portano idee, portano modalità diverse. Con tutti i cambiamenti che ci sono stati, specie nella tecnologia, avere dei giovani è molto importante. Per concludere, un obiettivo, l'ultimo obiettivo, il prossimo obiettivo per la banca, a breve o a medio termine, quale potrebbe essere? Noi stiamo preparando adesso, proprio in questi mesi, il nostro piano industriale, dove sarà un piano industriale di ulteriore rafforzamento e crescita. Quindi altri 400 anni per la banca, magari non 30 anni per lei, però auguri per il futuro suo e della banca. Ringraziamo grazie. Ennio La Monica, direttore generale della Cassa di Risparmio di Genova Imperia, che è stato qui con noi questo pomeriggio. Così come ringraziamo Fabio Cantadori in regia e Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.